പൂവൊക്കെ പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് പറക്കെ ചോസൊക്കെ നടുവിലെ ഒത്തു. Guarda invece la mia se scende adesso di segnale che sto abbassando. No, sì, 9.36 quasi. Avete dare 5 a bomba. C'ho problemi di cose le appella io. Visto ragazzi, uno quanto salite adesso. Uno quanto sezionale. Il cavo non ce la fa più, cercavo da cambiare, mi sono false è falso questo coso, questo non è possibile così. È come se il cavo non ce la facesse. E anche il lineare. Ora, ora, ora, ora. Ho fatto avanti, non vi conti, ho picchi negativi. Non ce la fa il tavola. C'ho picchi negativi, sicuro di due. Cioè, le batterie sono positivi, però le lineare sono negativi. Cioè, dopo le lineare sono negativi. C'è le 12.58 che è in tilt, evidentemente è pieno d'acqua. Caspizzina, quello è un bel problema, eh. Infatti di nuovo lo cambio. Perché se non riesco a fare nessuna regolazione, è falsa, è minimale, è falsa. È come avere l'antenna, per dire, senza la colassa del cortocircuito, tale uguale. Come pompi, per dire, se pompo 500 watt mi la stazione brucio tutto. Il discorso è quello lì. Evidentemente c'è qualcosa nuovo nella mantofa. O il cavo o l'antenna, due sono le cose. Che tipo di cavo stai usando, Antone? Il 58 sto usando, ma è fine, capito? Dopo un po' di tempo dai numeri. Magari il cavo più grosso sarebbe l'ideale per quell'antenna, è il 213, che ha meno dispersione, capito, è fatto meglio, capito. E diciamo che da cambiare anche l'antenna, perché l'antenna va a cambiare, quindi a un certo punto cambia tutto, va a fanculo, cioè a un certo punto se la biglia in curva. Me l'accorgo perché c'ho, allora, stazionari. Uno e due, adesso che sono liscio. Salgo un watt e salgo, aspetta un attimo, 1 e 3, è così, c'ho problemi d'antennaccio, l'antenna la mantova ormai è fatta così, la mantova ho preso quell'anno e da problemi, quindi se io pompo di sotto c'era 1 e 1, da problemi, da ti falsa tutto, ti falsa. Capito, se c'hai le stazionarie alte è un problema, capito. Io ho la fortuna di avere, a 1 non ci arrivo con questa antenna, capito, sia che faccio la prova sull'1, sul 10, sul 20, sul 40, sempre così, non sale l'asticella, capito, dello smitter. Ho capito, no, a me già mi sale, a voi già mi sale. Ho controllato l'osmite, c'ho 1 e 2 e 3, figurati, non ho mai avuto io, quindi senz'altro la carica della matova turbo è senz'altro. senza senza il cortocircuito, quindi come mi metto a pompare il sale, così facevo una volta con la matuba 5, non è uguale. Anche a me mi sale ogni tanto, non sempre, però insomma, non fa fretta. Dimmi ti ciao, buonasera. Anche a me mi sale ogni tanto. Sì, ma non lo spesso, cosa sto facendo adesso, guarda, una cosa del genere. Certo, non lo so, secondo me c'è proprio un'antenna. Anche perché parlo ruginoso, vabbè, la base è sempre tranquilla, adesso mi cambio il 58, vediamo un pochettino, va. Tanto ce l'ho regalato Fabio Masca, speriamo che sia buono. E se non voluto piazzarlo, me lo compro nuovo e vaffanculo. Intanto quello vecchio me lo compro nuovo, tanto per quello che costa, un euro e venti, quanto viene il 1213? Pesa poco, per l'accessorio. Buonasera comunque. Buonasera a te. Allora me lo compro direttamente nuovo e si abbiglia in culo. Tanto me sono 15 metri, non me servo neanche molto, mi. Sono 20 euro il cavo, quindi, a un certo punto. Me lo compro nuovo, vaffanculo. E così sono più tranquillo anche. Mi cambio il PL, li cambio. E così vediamo se il problema dell'antenna o quello che sia. Se dell'antenna fa culo, ce la buttano giù e a un certo punto, tanto già lo sai, la smonta la manco, ma me la cambierò. Aspetta, quello che vuoi? La regia 5813? Com'era? Io ho in pratica la regia 58 adesso, sto usando. Me lo modello vecchio però mi parlo io. Mi aveva regalato cosa? L'uncino me l'aveva regalato Giuseppe. Quindi sarà minimo verde di colore come la calza. Quindi adesso vabbè. Quando salgo sopra il tetto, salgo con la scala e controllo in che condizioni il PL e anche la calza. Tanto me la colgo subito, se il cavo è nero è pazzi, il discorso è quello. Secondo me già la fusione più del cavo va a far culo. Buonasera Tino, comunque Carlo da questa parte. Ciao Carlo, ciao. Sì. Allora costa 2,54 centesimi al metro. A partire dice, è ben chiuso, quindi sono circa 3,10 al metro. Dimmi, non so, lo vedo un po' Antonella, se lo devi prendere ne prendiamo 50 metri e poi 20 ti riprendi tu e 30 me li prendo io, tanto a me una trentina di metri ne servono. Vabbè, ci mettiamo d'accordo, dai, allora, ok. Ci mettiamo d'accordo assieme, allora. Avevo preso online da quel sito HM Radioamatori, mi è arrivato nel giro di 3 giorni e ho preso questo RG 213 Messi Paoloni, il modello è 0C17 Plus 10 ed è ottimo, ottimo, bello grosso, con doppia calza, c'è quella tradizionale, la calza, e poi c'è tutto il filamento in rame anche dentro, due protezioni, quindi ben protetto. Sì, Carlo, quello è buono, infatti stavo pensando di dare quello io. Anche io sono l'RG 58, ma è vecchissimo, e verrà sostituito, però vabbè. Al momento ho questo, quando scenderò l'antenna, perché è un po' impegnativa anche la mia antenna scenderla, perché è un palo a 18 metri, 18-19 metri se non ricordo, più l'antenna, quindi da solo è male anche perché sono in un tetto dove non è molto accessibile la cosa, diciamo. Ho capito, se non è di facile accesso hai sicuramente bisogno di qualcuno che ti aiuti, se è così alto poi il palo è antenna, oiaia. Guarda, tu credimi, non è tanto il peso, perché il peso sì, un palo così che l'antenna, è più che altro se c'è il vento, se... perché poi lo devi mettere in verticale e innestarla in un altro palo, capito? Quindi insomma, da solo che male, E io invece ho la fortuna che praticamente posso salire sul tetto, c'è un diciamo un quattro spioventi, però al centro del tetto c'è un piano di calpestio, quindi c'è la finestrella, salgo là e poi c'è una piccola casetta dove da una parte ci sono le antenne della televisione, dall'altra parte era libero e io mi sono attaccato lì, capito, ho messo il tubo e salgo sopra questo tettuccio e riesco anche a fare le regolazioni, capito? Sì, vabbè, io diciamo che piano calpestabile saranno circa una sessantina di metri, quello ne ho anche abbastanza, è che però non ho un appoggio come è tua, una casetta ed è ancora da lì, io ce l'ho praticamente a un tubo che sale sotto questo piano calpestabile, circa un metro di altezza dal piano calpestabile, quindi dovrei alzare l'antenna di un metro e dieci, non so quanto sia, e innestarla a quel tubo già esistente, capito? Poi ancorarla e balle varie. Vabbè, l'abbiamo fatto più volte perché ci sono stati degli interventi che ho dovuto fare, però insomma non è così, anche perché poi i pannelli solari non puoi stare, devi praticamente stare a lavorare in uno spazio di un blocchetto da 30x50, ecco. Ho capito, un po' la zona è sacrificata, dai. Però con un po' di pazienza e l'aiuto, magari quando ti cambi sia il cavo e eventualmente l'antenna, già dovresti riuscire tranquillamente. Certo, l'aiuto è fondamentale lì, Sì, vabbè, già riusciamo a farlo, Io finché riesco a fare tutto da solo, perché il posto diciamo mi permette di portarmi tutto, la cassetta degli attrezzi eccetera, mi appoggio là e quindi da solo le antenne, poi una volta che sei là già sono leggere, capito, quindi riesci a sistemarle anche da solo, una prima stretta giusto per tenerla ferma e farla scorrere su e giù e poi dai la stretta finale ai bulloni e una volta che lì si spera di non toccarla più poi. Infatti caro, vai Antonio. Sembra così facile purtroppo, ma quando si hanno antenne grosse cambia il sistema, hai capito Carlo? Finché la B27L che pesa mezzo chilo la puoi lavorare tranquillamente da solo, quando comincia a essere una mantova, una super lem, il discorso cambia. Quando invece per dire un'antenna di quelle a canola pesca, cazzo, quella non pesa niente, il discorso è quello, però c'è sempre il pericolo che mentre scende in terra, primo vento, è proprio in terra, capito? Quindi a un certo punto uno deve fare una scelta, o si mette un'antenna come si deve, o se no la fattura ci stiamo buttando i soldi, il discorso è quello lì, hai capito? Ho capito Antone, io questa che devo mettere appena ho la possibilità, diciamo è 7 kg, e come l'ho ritirata Claudio me l'ha data già diciamo quasi montata, no? Devo solo mettere lo stilo, quello più alto, che ci sono i tubi da comporre e poi lo devo fissare a tutto il resto. 7 kg però già li sollevi tranquillamente, capito? Non è pesantissima e spero che mi duri il più possibile una volta che la sistemerò. 7 kg non penso, 7 metri magari, non 7 kg. No, allora, come altezza è 8 metri, è 8 metri e 20 centimetri mi sa in totale, però e poi il peso è di 7 kg. Cazzo, 7 kg, cazzo, col palo. Poi, da solo non ce la fai, stai tranquillo, questo poco va sicuro. Non stai sollevando, ti posso dire, da solo un palo telescopico per dire da 15-20 metri che neanche pesa quel tanto lì che ha, ma comunque sia. Secondo me pesa di meno, quell'altra risa, 8 metri peserà 3 kg, 4 kg, non di più, non peserà molto, cazzo, il cazzo 7 kg, ma allucina, ma che cos'è, cazzo, un coso, ferro smalto, no, pesava, mi sembra 3-4 kg, la Firenze 2, figurati, era tutto alluminio e ferro. Mi sembra stato sempre pesa 7 kg quella lì, mi sembra molto interessante. La direttiva pesa quel peso lì, la verità, perché salisce là sopra, 7 kg ci sono per una direttiva di quella 4-5 di 20, quello che è. Io l'ho avuta e so cosa vuol dire salisce là a mano a 20 anni. Capito, comunque guarda, te lo sto leggendo dal libretto proprio delle istruzioni dell'antenna, c'è scritto guadagno 8,29 decibel, impedenza 50 ohm, 5 kW di potenza, ROS 1,1 e poi andiamo alle caratteristiche fisiche e meccaniche, c'è scritto lunghezza circa 8 metri, peso 7 kg, capito, e da lì lo sto prendendo. Un cazzo di piazza testa dei chili, una cosa del genere, sì. Mi serveva 30 come minimo, cazzo, boh. E cos'è il cazzo ferro? Acciaio, non lo so, non lo so, mi sembra strano 7 kg a me. E anche a me, io toccandola, però non è tutta composta, capito? Lo stilo più lungo è a spezzoni, quindi sicuramente qua ti dice il peso totale, capito? Diciamo la base che è in parte montata, l'ho presa ed è leggera, quella me la porto sul tetto tranquillamente con due dita praticamente. Poi bisognerà vedere quando monto tutto lo stilo lungo quanto peserà, capito? Però a quel punto è già sul palo, capito? Io faccio scorrere le zanche che ha dentro il palo e me la porto giù, poi io salgo sul tettuccio, infilo lo stilo lungo, capito? E lo fisso bene, non so se vulcanizzarlo o meno dove ci sono i contatti, e poi basta, poi spero di non toccarla più. E bisogna che fai così per forza, ma tutta vulcanizzata con l'antenna comunque sia, in uno o nell'altro. Tutti cosa dici? Non lo so, io ho mai sentito 7 kg con l'antenna. Tu dove le vulcanizzate, dove ci sono le giunzioni? Certo. E io mi sono preso un rotolo di quel nastro adesivo vulcanizzante nero, come la piazzo prima di portarla su, tutti diciamo i contatti dove ci sono le viti e le fascette, quelli me li vulcanizzo allora. Ma che certo devi fare così, se no è come cavolo fai secondo te? Tu devi vulcanizzare, dopo che hai vulcanizzato quello lì ci metti il nastro isolante sopra e poi ci metti la vasellina, boh, e sei tranquilla, vasellina di quella, la sola vasellina, lo compri da piccola, glielo passi sopra, stai tranquillo che sei a posto. Non c'è più bisogno di fargli nulla con l'antenna, non lo tocchi più, te lo dico io. E prima di piazzarla già mi organizzo tutto in maniera tale che così ho tutto su e non sto su e giù, capito? Perché salire al sesto piano, insomma, anche se c'è l'ascensore, non è divertente, quindi mi preparo la borsa con tutto l'occorrente, cacciaviti, chiavi, tutto, CRC, forbici, nastro vulcanizzante, nastro adesivo, vasellina. Una volta che sono su, salgo, quando è una bella giornata piazza tutto. Aspettiamo che faccia, che finisca questo inverno qui e anche questo tempo qui, non so l'altro, perché adesso non puoi fare per niente con questo vento qui, me la vai, no, non esiste. adesso bisogna fare salsicce altro che antenne, oh yeah. Va bene ragazzi, rimango un attimino in QRX che devo fare due cose al PC e poi ci sentiamo magari più tardi se coincide, se non addormento prima. Lancio ormai il campanello, aspetto i saluti e poi vado via. A proposito di salsicce, tu stai facendo, sì? Se ce la faccio la prossima settimana. Ok, va bene, fammelo sapere. Così almeno lo piglio qualcuna. Già non c'è problema. Sì, non c'è problema, dai. Ci sentiamo. Vabbè, ciao, a più tardi. E io ciao a te, a più tardi. Alle prossime. Ottino, grazie al QSO, alle prossimine, anch'io tra un attimo devo uscire e rientrerò subito, però poi me ne vado a letto perché domani mattina devo andare a lavoro, non prestissimo, devo essere alle 7 a lavoro domattina, quindi però non faccio tardi. Ok, allora tranquillo, ti lasciamo qua noi. Ti aspettiamo, tu vai tranquillo, poi dormi, poi mattina parlate svegli. Ci chiami, non c'è problema. Da domani esco alle 13. Se c'è qualcuno in radio, io solitamente accendo in macchina rientrando e già ci sentiamo. Benemera, di nuovo Antonè, alle prossime, così ci aggiorniamo per le altre cosettine. Poi se proprio ti serve, io 20 metri di cavo RG213 ce li ho pure, te lo posso anche regalare. È in ottimo stato perché prima avevo quello lì, l'ho tenuto uno 6-7 mesi, però era troppo corto, sacrificato, e ne ho 20 metri, capito? Tanto tenerlo giù è buttato e non lo posso usare, non me ne faccio niente, capito? Quindi a te te lo do volentieri se ti occorre. Ce l'ho quel campo, ce l'ho. Devo chiederlo a uno che c'ha il lineare che gli ho prestato io, per cambiare un pezzo, hai capito? E quindi gli tocco il cavo suo e mi piglio il nuovo lineare mio, che io lavoravo a un'altra in pratica, che non è neanche mio, figurati tu. A un certo punto l'ho telefonato un'altra volta e quindi anche lui ha fatto finto sotto, bisogna fare. L'ho fatto un'altra volta al computer anche a lui, a un certo punto. Ha dovuto fare il finto sotto, io voglio sapere. Quindi gli porto il cavo dove lavora lui, gli porto e poi faccio dare quello che mi deve dare a me, dopodiché il cavo me lo prendo, non mi costa nulla. 15-20 metri di riuscito, non è che mi fa così poco, no? La verità, ma si può avere la roba mia, perché col cavo ma cosa provo quello che mi ha dato lui. Va bene, Antonè, devo uscire io. Ci sentiamo alle prossimine, eh? Ok? Grazie del QSO, della chiacchierata. Buon tutto, Antonè, alle prossime. Ok, ci sentiamo domani, là. Ok. Buona passeggiata, buon tutto. Alla domani, buon recupero di tutto. Ciao. Ciao.